attenzione 10, prego. Hola, attenzione canale 10. Hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno? Ciao Gianni. Ui, e allora? E Tundu, come ti arrivo? Bene, bene, Giuseppe sì. Sì, sì, ho ripiazzato questa antennina, vediamo un po' come va. Ciao, va bene Giuseppe, va benissimo. Sei da un po' che non entravi, dai. Io ti ascolto tranquillamente. Stazionarie, mannaggia, modulate sono 1,6. Troppe sono. Come ce l'hai messa questa antennina? Come sempre qui vicino alla finestra. Bisogna che ti decidi a metterne una, come si deve, di antenna sul tetto. Buonanotte Giuseppe. Lo stavi facendo, poi ti sei arreso, eh? Gappa, gappa. Adesso vediamo un po', aspetta un attimo, siamo lì, 1:30. Sì, vabbè, ancora già va bene, dai. Ancora già rientri. Non fare passaggi molto lunghi. Cosa stavo dicendo, Giuseppe? Con che radio stai uscendo? Adesso sono col Magnum. Se c'è bene, mi è un bel forte. L'unico pecco è lo smitter, perché qua adesso sono sul canale 9. Non lo smitter, i canali, la frequenza, frequensiva. Cappa, frequenzimetro. Ma guarda un po', Cassebu, con l'apparecchio. L'ha fatto anche ad altra gente questo difetto qua, lo sai. Dopo un po' di tempo che ce l'avevano, o le è sparito il numero, o cammina da solo il frequenzimetro. Deve essere proprio un difetto di quell'apparecchio lì, perché 980 io l'ho comprato dopo e non mi ha mai dato problemi. Gianni, con il 48. Va bene anche quello, ma l'S9 è un'altra cosa, Giuseppe, ti ho detto chiaramente. Gianni. Questo sono a 1,3, 1,4 di stazionario. Gianni. Ehi, avanti. Ma non ti sei parlato? Con Giuseppe è tornato. Arrivo qua. Ciao, se mi ascolta, Giuseppe, buonasera. Ascolta, ma non hai un controllo di radio, per favore? Come sto uscendo? Cioè, va bene. Qua lui è vicino a casa, sta usando un antennino e per quello lo sento, forse tu, essendo in alto, non lo senti per quello. Essendo in alto, Marco, stiamo essendo in alto, sono lontano io da lui, sono dall'altra parte del mondo. Sento bisbigliare, ma non arrivo qua. Bene, cosa vuol dire? Va bene come modulazione, chiara, forte, amplificata, va bene? Sì, diciamo che non è la solita radio battagliera che usi tu, però è chiara, è presente. Io per essere battagliera basta solo fare il coso, non so, vabbè. No, sto provando un baracchino, voglio sapere se stava andando bene. Vediamo un po' se lo vado appena appena, così va meglio. Ma non mi sembra che abbia cambiato. Sì, ma non è male, mi Claudio, non pensare che sia male. Anzi, si sente abbastanza bene, la radio è abbastanza presente. Giuseppe, avanti. Gianni, ma chi Claudio è? Claudio Sparviero. È strano che non arriva qua. Neanche lui non ti sente, perché ha cambiato casa adesso, non abita più lì a Carbonassi, quindi probabilmente non è favorevole per te. Gappa, gappa. No, niente, io ce l'ho in mezzo al QRM, ma non mi muove manco lo smitter. Salutamelo già, non arriva qua, dai. Non lo sento io a Giuseppe, salutamelo. Vabbè, comunque la modulazione mi ha detto che va bene, dai. È abbastanza chiara, abbastanza... Perché sono in cuffia, la sento molto forte. Sì, già è forte, claro. Non è la solita radio che usi col keyboard, quello mi ti voglio dire. Però è forte, va bene. Che radio è questa qua? Il DAC, devo fare un po' di filmini, un po' di cose, quindi l'ho riattaccato. Prima di fare il filmino, chiaramente devo essere sicuro che tutto funziona bene. Di fare il video, là, il filmino, il video. Ok, niente, va bene, no, che paragoni fai, Gerusalemme tra Ugata e K, c'è un altro timbre, c'è un'altra cosa, questo è un MB più 5, però ti ripeto, sono in cuffie, te sembra che stia andando bene, no? Sì, non ti ho detto che sta andando male, non era la solita modulazione, è quello che ti volevo dire. Io non lo sapevo con che apparecchio stavi uscendo, per cui ti ho detto quello che ho sentito. Avanti, Giuseppe. Va bene, dai, salutamela Giuseppe, ci sentiamo. Segnale buono mio, sto andando una decina di fatti, va bene? Già, va bene. Ok, salutami a Giuseppe, perché lui pure tanto io non lo sento. Faccio una carrellata nei canali un po' più in alto, così faccio un video che volevo mandare a uno. Ehi, va bene, dai, fai pure, non c'è problema. Avanti Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono già, vado a prendere una rondella che ho l'antenna un po' lenta, un attimino. Ehi. Prova a farlo parlare a Cosio. Sta facendo un lavoro all'antenna, sta mettendo una rondella perché era molle. E sta mettendo una rondella, aspetta un secondo, vediamo un po' se l'ha messa. Giuseppe, ci sei? Sta piazzando una rondella nell'antenna, la stava cercando, ha detto che era molle, quindi doveva mettere questa rondella. Oh, yeah. E quindi te lo vuoi vendere il DAC? Oh, Giuseppe, ci sei? Giuseppe? Vabbè, Giuseppe, chi è che fischiava? Chi è che sta scendendo la terra? Chi è? Prevediamo come coso già, prova a regolarla. La stai tagliando? Che antenna stai usando, Giuseppe? Adesso sono sceso un po', E a quanto ce li hai? Adesso modulati 1,5. Sempre col coso, con che apparato sì, con le 6,9. Adesso provo a scendere ancora, la sollevo un altro mezzo millimetro. Cavolo, QRM a manetta, Davvero? No, qua no. Cosa ti stavo dicendo, Giuseppe, ma non è che tu hai toccato i kilohertz, perché c'è un cursore che va, sposta l'apparecchio di 10 kHz e ti dà un altro canale, ti mette tra un canale e l'altro. Prova a vedere se è quello che ti fa andare sui canali sbagliati. Allora, vediamo un po', off 10 kHz, però adesso è a off. È a off, e ti dà di schianale. Come lo tocco va a 27,850. Stava vedendo questo dubbio qua. Ma che strano, è una cosa un po' strana. A me mi ha sempre funzionato bene quell'apparecchio lì, vabbè ce l'avevo poco tempo, io ce l'avevo nemmeno un mese quando te l'ho dato a te. E meno male Vittorio è riuscito a farlo ripartire. Perché non funzionava nulla? No, no, c'era la frequenzimetro che correva, sembrava un cavallo. Cazzo. Vabbè, interessa a te che funzioni, là. Ma magari si può, è una gazzarda. C'è una persona che è molto in gamba aggiustando gli apparecchi. È a Bolore però, non è qua a Sassari. Ed è molto bravo, aggiusta gli apparecchi in scioltezza proprio. In due giorni te lo fa. Se c'è cosa che si può fare te lo fa subito. Gappa, gappa. Adesso vediamo un po'. Quello è bravo, Io ci avevo un garage che era difettoso e cose, mi sono rotto le balle, l'ho venduto, a quello che l'ho venduto ci ha speso 20 euro e l'ha aggiustato, capito? Se l'ha aggiustato in due giorni. Se il mestiere suo già è in gamba. Mestiere suo, cioè lo fa per hobby ma lo fa bene, capito? Cioè qua non ce ne sono che lo aggiustano, che sanno aggiustare gli apparecchi. Vittorio sì, si arrangia, ma questo qua è proprio, cioè si appenta un bel, capito? E allora magari uno di questi giorni ci si fa una chiacchierata. E a Bolore, basta chiamare a Claudio, ti fai dare il numero di telefono e lo chiami e glielo chiedi. Cappa. Guarda, Bulldozer di sicuro ce l'ha il numero di questo qua. Sicuro. Sì, perché ha portato apparecchi, ce l'ha. L'ha dato anche a quello che l'ho venduto l'apparecchio io. Quindi ce l'ha sicuro. Ok. Non c'è nessun altro in giro? C'era Claudio, ma adesso ancora è presto e non ha né gara di entrare oggi perché c'è la festa di tutti i santi e non ne hanno voglia. Vabbè, giornata di festa, si può anche capire. Kappa. Quindi tu non hai lavorato oggi? No, no. E domani? E domani sono in ferie. Hai fatto bene, dai, così almeno te ne vai tranquillo, la cimitera a trovare il carico. Infatti. Aspetta che do un'altra regolatina. KK. Beh Gianni, come stai? Eccolo qua. Buonasera. E sto così, Giuseppe. Sto così. Non sto bene, dai. Però oggi mi sono messo un po' a cantare cercando di dimenticarmi il dolore perché ce l'ho sempre fisso. E un po', capito, non ci ho pensato e mi si è alleviato, dico la verità, forse è una questione anche mentale, capito? Beh certo, se ti distrai, però non ti hanno ancora chiamato quindi per fare l'intervento. Allora, mi hanno chiamato l'altro giorno, mi hanno detto ascolti, buonasera, domani dovrebbe venire di mattina alle 7:30 che dobbiamo farle il prelievo del sangue per sapere il gruppo sanguigno per mettere a parte le sacche e poi praticamente deve cosa mi hanno fatto anche, mi hanno fatto due o tre, il tampone mi hanno fatto e mi hanno detto però ascolti dobbiamo dire una cosa, lei è di riserva, se praticamente qualcuno rifiuta entra lì, subentra lì e invece non ha rifiutato nessuno, io sono ancora così, capito? Sto aspettando, ho chiamato 50 volte all'ospedale, poi alla fine mi hanno chiamato loro e glielo ho detto che in che condizioni ero e mi ha detto guardi ascolti io mi prendo l'onere di parlare col dottore, vediamo un po' cosa mi dice, ok? Vabbè, la ringrazio, cosa devo fare? Insomma, c'è da pazientare ancora, ma siccome non ci eravamo più sentiti, ho detto spero che l'abbiano chiamato a Gianni. E niente, io ho lavorato di mattina, oggi sono tornato a casa che erano le 2:30 pure. E niente, adesso sono, prima ero sceso giù, stavo mettendo un po' a posto perché avevo lasciato delle cose in giro, attrezzi, stavo pulendo un po' le aiuole, eccetera. E niente, adesso sono salito, ho provato ad accendere. Sto uscendo con 4 watt, come mi senti già? Benissimo, benissimo. Se non me l'avessi detto non ci avrei manco fatto caso. Ascolta, sei venuto proprio a Dama. C'è un amico che ha problemi a un S9 praticamente e c'ha lo smitter e i canali che segnano sbagliati, capito? Invece che essere sul 10 adesso per dire sul 9 e praticamente vorrebbe aggiustarlo, vorrebbe portarlo dove l'hai portato tu il numero di telefono di questo ce l'hai? Sì, io ce l'ho il numero di Albino a Borore, non ne ho problemi a girartelo oppure lo giro a te e poi glielo dai e fai così, mandamelo su WhatsApp e poi glielo do io a Giuseppe dai. Comunque Giuseppe Tornado è un amico, un vecchio amico che entrava prima, c'era un po' di tempo che non entrava e si è rientrato dai. Giuseppe ci sei? Sì, ci sono già, sto sempre cercando di fare delle regolazioni, mannaggia. Guarda, è entrato Carlo, quello che è andato a Bolo a fare aggiustare la parrucca, mi ha detto che mi dà il numero, poi te lo giro a te, capito? Gappa, va bene, dai, così nel caso vi faccio una chiacchierata e vediamo un po'. Adesso lo sento, Giuseppe. Lo sì, io. Giuseppe, adesso lo sento, arrivo a Santiago Terrico. Giuseppe. Buonasera, buonasera. Sì? Ti sta chiamando Claudio, lo senti? Comunque è entrato anche Carlo, saluta e poi ti parla con Claudio. Buonasera, buonasera. Saluti a tutti, Claudio lo sento piccolo. Io ti sento lo stesso piccolo, ma io non sono più a Sassari, per capirci. Sono sotto Ogero, quindi non ti sento. Mettiti l'antenna. Ciao Carlo, ciao Gianni, c'è stato un buonasera. E io vi saluto, rimango il Corix che sta facendo una cosa avanti. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Crisiande, sento lui Crisiande, ma allergico come c'è l'impatto. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Sì, sono allergico a quelli che non hanno capelli. Ciao oggi. No, sto facendo cose, cioè che devo fare dei video di una radio che ho messo in vendita, praticamente me l'hanno chiesta e quindi sono impegnato, se non faccio casino. Ho commutato la radio per sentire a Giuseppe, ma lo sento, ma basso, basso, basso, se non si mette l'antenna qua non arriva. Ok, vi saluto, buon proseguo di serata a tutti. Avanti Carlo, ciao, buonasera. Ciao Claudio, buonasera. Sì, io Giuseppe lo sento, basso di radio, radio 3, Santiago 7, non di più. E voi siete vicino qua, deve separare tutta la città per arrivare a queste parti, quindi non arriverà mai. Capo, ciao Claudio, ci sentiamo. Avanti Giuseppe. Non posso fare passaggi molto lunghi perché sono riuscito adesso a stabilizzarmi a 1,5 modulato. Vabbè dai, ma sino a 2 già può andare bene, 1,5 va bene dai, 2 già è rosso. Fino a qua non arriva manco di striscio. Ciao Carlo! Ciao Giuseppe, ben sentito, per la prima era per me, o forse non, se non ricordo non ci siamo sentiti altre volte, ma è da parecchio che non stavi modulando. Ciao Carlo! Ciao, ciao, senti, sì, da parecchio, ma ci siamo sentiti molte volte. Ho capito. Forse è entrato Franco, se non sbaglio. Ciao Franco, sono io, buonasera, Eugenio, Polo Torre, Soglia, Uglia. Eugenio, come va da quelle parti a Porto Torres? Tutto a posto, tutto bene per il momento. Si lavora anche troppo e niente, e non si combina niente. Il signore io non, l'amico lì non lo sento proprio per niente, manco non lo dite non muove. Giuseppe è tornato a Sassari, ma non ricordo da dove sta trasmettendo, da che parte di Sassari. Io lo sento abbastanza bene, Santiago 7, Radio 3, la radio non è molto forte, ma lo sento bene, anche sopra il QRM. Sta uscendo con l'antennino interno, capito Eugì, è quello il fatto, che ancora non si è deciso a mettere l'antenna sul tetto, e non lo so se si deciderà, perché magari non vuole dare disturbo agli altri condomini, non lo so com'è. Ah ok, ora si trova tutto, va bene, allora va bene. Così è Giuseppe. Ma vediamo un po', perché se la faccio devo farle bene le cose già. Le devo far bene. Comunque zona Sassari 2 è l'uscita mia, Ha copiato Sassari 2, ha detto così? Sì, Sassari 2. E allora già è vicino, dai, alla zona mia. Già in linea d'aria siamo abbastanza vicini, appena sotto casa tua se non sbaglio già. Sì, sì, è vicino a casa. Non lo so manco io dove abito esattamente, ma è sotto, vicino a casa mia, dai. Sì, no, qua già lo sento abbastanza bene. Certo, se ha un antennino così è ovvio che è penalizzato un pochettino, ma se lo mette fuori già dovrebbe andare bene. Capo, lo mette fuori dalla finestra, ma sempre il tempo che tromba lascia sempre, queste antenne così provvisorie sono un po' così, vabbè, ma già se si decide c'ha palo, c'ha tutto, l'antenna se l'aveva comprata, e poi non l'ha presa, ma l'avevi comprata Giuseppe l'antenna, sì. Avevo preso la boomerang. E quella lì non l'è mai piazzata Giuseppe. Sì, ho provato qui, ma è più alta del soffitto. Cazzarola. la boomerang sì. La boomerang ti fa uscire bene, perché la usa un tipo da Sassari Vecchio e esce bene da tutte le parti, arriva anche a Porto Torres. Sì, è quella che ha quel radialino a metà antenna. Sì, sì, sì, ho capito. AL dovrebbe essere, una L. Ma lì ci puoi mettere anche una bella antenna, io ho messo la LEM e va la grande, l'ho tolta l'altra perché si è troncata in due quella di vetroresina, non serviva a nulla questa antenna, e ho messo la LEM. La LEM è veramente una bella antenna, è come la Mantova. Chi era questo basso basso? Non ho neanche sentito, lo squelce alto perché c'era un sacco di QRM, quindi se magari fa un altro passaggio adesso ho abbassato, magari riesco a sentirlo anch'io. Anto, ma tu sei? Non lo so. Io guarda Carlo, pensavo che ti avessi smontato tutto quanto per il tetto, invece no. Allora, qualche lavoro l'ho fatto, praticamente mi sono passato il corrugato, l'ho fissato bene con cemento, ho dovuto sfilare tutto il cavo dell'antenna insomma ho fatto un po' di lavoretti, adesso aspettando che arrivino lì, magari non so quanto ci passa, ho preso perché c'è il corrugato e faccio in un attimo a infilare, capito? Quindi ho rinfilato, ho saldato di nuovo lo spinotto e niente, sto trasmettendo, però diciamo per città sto usando pochi watt perché stavo creando qualche disturbo qua, già te l'avevo detto. Vabbè, comunque ti ascolto bene lo stesso. Avanti Eugenio. Stavo seguendo il discorso. Stai disturbando, Oca? Come mai? Guarda, praticamente non la TV, non TV hai, perché anche a casa accendo il televisore, trasmetto, non succede niente, e l'impianto è centralizzato, per cui ce l'abbiamo tutti uguali, ma su casse di computer di quelle vecchio tipo, capito, quelle a torretta che si mettono sulle postazioni di computer fissi, che non hanno schermatura, sono vecchie e la gente continua ad usarle, su quelle lì entro là e sento la mia voce. Vabbè, io quando passavo con il mio furgoncino, che avevo come l'impiantino del furgoncino, entravo nelle casse della Cisa, mi sentivo una ottava nelle casse della Cisa, come avevano gli annunci, sentivo non per parlare. E dipende, stavo facendo così l'altro giorno un discorso con Roberto e lui mi ha detto che può essere anche il tipo di radio che magari ha delle spurie, delle onde che sono quelle che magari non è ben schermata la radio, eccetera, potrebbe essere la radio oppure potrebbe essere anche l'antenna, ma non l'antenna, praticamente il bilanciamento dell'antenna, quindi non c'entrano gli ohm dell'antenna, ma io ho un'antenna che non è bilanciata ma sbilanciata, perché ha due stili, uno corto e uno lungo, per cui si vengono a creare correnti RF che corrono lungo il cavo e dovrebbe andare una dentro il centrale e l'altra nella calza, e invece quando c'è lo sbilanciamento si crea una terza corrente che va nella guaina, capito? E quella può fare un ritorno addirittura in radio e quindi rovinarti anche l'apparecchio, ma se ci sono apparecchi vicino eccetera, praticamente trasmette ed è quello che crea il disturbo. Quindi ho dovuto realizzare un choc, una sorta di balloon, un avvolgimento di cavo su un tubo da 10 di diametro, e ho realizzato una spirale con 10 giri, dovrebbe andare meglio adesso così. Ho capito, vabbè, i misteri dell'elettronica, delle radiofrequenze, va bene, riprendi doppio zoom. Diciamo che la cosa principale dei disturbi sono i watt che si usano, quelli danno problemi, quando sono troppo alti i watt danno sempre problemi. Avanti Giuseppe. Sì, vedi un po' se in questo passaggio ho migliorato o peggiorato, Gianni. Ma da me sei sempre buono Giuseppe. Quanto c'è di stazionari adesso? Allora, le stazionarie sono sceso 1,5 modulato. Già va bene, lascialo così che già va bene, non dà problemi così. E 1,5 è ancora accettabile, dai. Kappa, i tempi della Mantova 2 sono finiti, è ancora su quel tetto. Che peccato quell'antenna, io me l'avrei fatta scendere, sarei andato e me l'avrei presa. È sempre bella, nuova, perfetta, bella, bella piomba, non si è mossa ad un millimetro. E poi quell'antenna è stata pensata bene, dal muratore, tutto grande, tutto fatto bene. Ma sempre nuova, la cosa è giusta. Già me lo ricordo il giorno che l'è piazzata, c'era anch'io. C'eravamo io, Pierpaolo e Bomburino. Kappa, una sudata al giorno, guarda, non me ne voglio ricordare. Comunque l'ha piazzata bene, quello sì. Ma comunque la puoi sempre recuperare, non te la fanno togliere. Ma io non ci voglio andare, avevo chiesto un po' in giro chi andava a smontarla, però poi alla fine della fiera va bene così. Perché è un peccato, tu avevi la Mantova 2, no? Sì, sì, Mantova 2, perfetta in tutto e per tutto. Quella è una bella antenna, non prende manco QRM, è una bella antenna. Che peccato, perché quelle antenne lì sono ben ricercate, non poco, no, non ne fanno più, e sono ricercate perché erano delle buone antenne. E mi pare l'avevamo comprata assieme a Fredanieta, ti ricordi? E allora, siamo un ricordo, siamo andati insieme a prenderla. Vedi tu, Giuseppe, se riesci a smontarla, ti piace quella e se andava, ti dà una pulitina con la d'acciaio CRC, i radiali, ed è fatto il gioco. Cappa cappa, avanti gli amici, io tra un po' chiudo già, perché vado a dare una mano fuori. Bene Giuseppe, se stai per chiudere io ti saluto, ti rilancio Eugenio. Sì ragazzi, dai, anch'io mi sto allontanando. Ciao, grazie di questi 10 minuti di conversazione, ci sentiamo che devo fare cosa. Ciao ragazzi, alla prossima, a domani. Ciao, ciao Giuseppe, anche se non ti sento. Ciao Gianni, Carlo, hasta luego, tutte cose, cosce calde. Ciao a tutti, ciao. Ciao G, ciao, buona uscita, dai, ci sentiamo, avanti Giuseppe. E cappa già, io altri 5 minuti, poi mi avvicino un attimino a dare una mano fuori e poi se coincide rientro ben volentieri. Cappa cappa, non c'è problema. Avanti Carlo. Ah, ciao Eugenio, ce la risentiamo. E niente, anche io ancora un altro po' sino alle 7:15 starò in radio, poi devo uscire per fare una commissione, prendere pizze, prendere l'ordinazione, andare a ordinarle, si fanno le 8 e quindi un'altra mezz'oretta ancora posso stare. Vai Giuseppe. Gappa gappa. No, va bene, va bene. Io adesso se riesco a organizzarmi vedo un po' di metterla su questa antenna che ho preso. Vabbè, e quella lì dovrebbe andare bene, perché se la punti nelle parti giuste, poi prende tutta la città, arriva anche se la porta Torres, perché c'è l'amico che modula da Sassari Invecchio che arriva a tutte le parti. Mi hanno detto che quel radialino va puntato a nord. Ma vabbè, dove vuoi arrivare tu lo punti, non è che ci sia una legge, se tu vuoi andare verso Porto Torres lo punti verso Porto Torres, se no lo punti da altre parti, non è che ci sia una legge, però per la città, se voi fate sentire in città lo punti verso la città e via. Ah, ho capito, io credevo che fosse proprio una regola di quell'antenna. No, non penso. Oh Carlo, avanti, ripetiti, il numero mandato me l'hai, Carlo. Io te lo mando già, dammi un attimino che lo trascrivo, poi te lo mando su WhatsApp, aspetta che me lo cerco, ce l'ho sul cellulare. Che antenna ha preso Giuseppe? Ha preso una boomerang. Ah, e vabbè, già vanno bene quelle lì, sono abbastanza maneggevoli e quindi già di facile installazione, insomma, se la mette fuori non dovrebbe avere molti problemi. Sai cos'è? Ti spiego, Giuseppe non vuole dare molto all'occhio perché non è da tanto che ci abita quel palazzo, quindi non vorrebbe crearsi dei malumori, delle cose, quindi ha preso un'antenna piccola in modo non si vedi e via. Ho capito, piano piano magari può passare ad un'altra. Cappa cappa. Avanti Giuseppe. Sì, ma poi la boomerang è abbastanza leggera e di facile installazione e senza grosse pretese, perché prima c'erano le gare a chi ne batteva di più. Ma quello no. Io già diciamo che se voglio posso andare avanti, ma sto facendo sempre con tre vatte, capito? Sì, ma va bene, io non ho più niente qua, io ho questo, il E248, finito lì. No, io già ne ho gli apparecchi, non ho più il Galaxy perché l'ho venduto a Carlo, però altri apparecchi buoni ne ho, dai. E già va bene, ma l'importante è sentirsi, poi piano piano sentire avanti. Cappa cappa. Adesso Bombolino piazzerà lì alla Latte Dolce. Ah, si trasferisce? Sì, la prende lui la casa dove c'era il padre. Meno male, è la prima cosa che mi è venuta in mente. E adesso dovrà fare, diciamo, organizzarsi, e poi, perché c'è Sara, la ragazza che è incinta, quindi sta per partorire. Cappa, già lo sapevo. Vabbè, ma è la scelta giusta. Infatti, perché poi nasce il bambino, c'è una casa più grande anche. Cappa, e non devi pagare affitto esorbitante magari come lo pagava là. Infatti. Ma sono contento per Antonio, va, che si sta sistemando. Già se lo merita. Già travaglia, poveraccio. Vabbè, va. E adesso doveva venire a casa in questi giorni, mi ha detto che passava, da voi non si è passato, da voi ce l'ha avuto a fare, perché mi pare che l'ha ricoverata, sa. E adesso è il periodo critico. E appunto. Adesso bisogna andarci coi piedi di piombo. E adesso magari farà diventare un po' più grande il bambino, perché è piccolo, quando nasce, e poi si trasferirà, non lo so. Ma gli conviene secondo me subito, uscita dall'ospedale, trasferirsi, e si sistemano bene o già. Ma deve sistemarsi un po' di roba, capito? Deve spostare roba, buttarci roba, non lo so cosa deve fare, me lo stava dicendo. Cappa, dai, già va bene, sono contento. Mi dispiace da una parte, ma sono contento dall'altra. Cappa. Già, io stacco un pochino, e do una manina, così non hanno niente da riprovererarmi. Eia, se no col mattarello ti picchiano. Cappa, dai, ciao Gianni, ciao Enrico, ci sentiamo alla prossima, dai, buon tutto e niente, se coincide a più tardi. Ciao Giuseppe, ciao, buone cose, dai, ce lo sei, siamo qua. Avanti Carlo. Eia, ciao Giuseppe, ci sentiamo alle prossime. Adesso Gianni ti mando quel numero. E poi glielo giro a Giuseppe, dai, poi se gli interessa, se no vede lui. Ok, te l'ho inviato, Il cognome non me lo ricordo. Albino io ce l'ho registrato. Il numero è quello, ma basta contattarlo, basta che lui dica, insomma, che gliel'hanno dato amici CB di Sassari, capito, o Claudio, oppure lui mi ha detto non c'era problemi se lo davo il suo numero, o Carlo, oppure chi è che me l'aveva dato a me? Ricordami già. Bulldozer. Esatto. Sì, ma lui non ha problemi. A lui gli arriva al lavoro, quindi problemi non ne ha. Non penso che ne abbia. Vabbè. Perché se riesco a aiutarlo, mi dispiace, perché quell'apparecchio gliel'ho venduto io. Gliel'ho venduto che non aveva manco un mese. Lui è dammelo, alla fine gliel'ho dato, io me ne sono preso un altro. Dopo un sei mesi così gli ha fatto difetto lo smirgi, no, il frequenzimetro, se ne andava da solo, si continuava a camminare, capito? Non so cosa sia successo, però ho sentito già altri che al frequenzimetro quel tipo di apparecchi avevano problemi, l'S9. Infatti io qui avevo preso l'S980, ma senza sapere il difetto che faceva l'S9, perché l'ho saputo dopo che l'ho detto che c'era questo difetto qua, capito? Lo smia il frequenzimetro che non coincide col numero dei canali, capito? È un casino. Ho capito, sì, il numero me l'aveva passato Massimiliano Bulldozer, al quale era stato Claudio a dirglielo passalo a Carlo perché deve aggiustare questa radio e quindi, ma diciamo che Albino, io ci sono andato a Borore, già è disponibile, capito? Se tu glielo porti, basta chiamarlo, dire di che apparato si tratta, che stai chiamando da Sassari, quindi lui ti dice sì, te lo posso aggiustare, portamelo, lasciamelo, e poi lui ti dice se poi ci vogliono i pezzi, li può ordinare lui, oppure lo dice a te, li ordini e lui te li sostituisce tranquillamente, perché già ho visto che si destreggia bene con gli apparati, ne aveva una marea là, tutti esposti, aggiustati, da aggiustare, aveva più di 100 radio diverse nel laboratorio, che lui lo fa per hobby, capito? Però è tutta la vita che ha questo hobby, per cui, capito, alla stazione, lì a casa sua, l'antenna, una volta contattato, insomma, poi ti dirà l'indirizzo dove trovarlo, già è facile con Google. Lui è camionista, mi pare, è vero? Sì, fa lavori anche in campagna, eccetera, però poi come hobby ripara, l'ho visto riparare un folletto addirittura, di tutto sa fare. E quelli sono t'arrangia, ti dà. Vabbè, oh, ben venga, ci fosse a Sassari uno così, quando c'è problemi di porti l'apparecchio e te lo fai aggiustare, ma andarci a volo, io con la gamba così non me la sentivo, Giuseppe, per quello che l'ho venduto, perché tanto non potevo andarci, stavo male, Vabbè, non è neanche lontano, dai, dopo Bonorva, io quando ci andavo, ci sono andato quando dovevo andare a Bonorva, per cui da là sono una trentina di chilometri, capito, e dopo Macomer vai oltre, capito, e 10 chilometri dopo Macomer. Lo so, però tu capisci a me, io guidare la macchina per me è un problema adesso, perché la gamba destra io non riesco più a sollevare il piede, allora me la metto sopra con le mani, mi alzo la gamba e mi faccio andare il piede, che poi non va dritto, va solo di punta, girato verso l'interno, quindi non posso premere il pedale bene, e se capita che c'è un'urgenza di fare una frenata brusca, non riesco a alzare la gamba, mi capisci cosa ti voglio dire? Io non sto guidando per quello. Beh, finché non risolvi con quello che sai tu, insomma, dai, speriamo bene già per la tua gamba. Sì, se, daglielo pure a Giuseppe quel numero, poi se gli va, se lo vuole aggiustare, se a lui interessa, basta che lo contatta e dice, me l'hanno dato amici CB di Sassari, può dire anche o Claudio o Massimiliano, gliel'ho dato io, insomma, non c'è problema, lui me l'ha detto che il suo numero lo potevo dare, anzi se gliene portavamo di lavoro, che già lo faceva tranquillamente. Kappa, infatti. Ti ringrazio da parte di Giuseppe, dai, che io ci tengo che lui riesca a metterlo a posto questo apparato, perché è un peccato, è nuovo, nuovo, nuovo, io gliel'ho detto che non aveva manco un mese, l'avevo appena ordinato, capito? E detto vabbè, dai, me lo riprendo nuovo, poi ho visto che c'era 9,80, ho detto questo è superiore, aggiungo qualche cosa, 9,80 costava 500 euro, quello lì costava 3,80 mi pare, 9,80 costava 500 euro, mi sono preso 9,80, capito, è quello che uso in macchina. Sì, già ho capito di quale radio si tratta. Sì, a Borore io anche l'altro giorno ci sono passato vicino, l'ho visto anche il bivio di Borore, perché sono andato, quando è domenica ad Arizzo, c'era Autunno in Barbagia, no? E quindi praticamente dopo Macomer giri e fai quella strada lì, non ci sono arrivato ma sono passato vicino, già mi capita spesso a me andarci da quelle parti. Io a Arizzo sono stato a Pasqua, a Pasquetta un anno, sono stato all'Hotel Samuvara. Comunque un bel centro, tu dovevi vedere l'altro giorno la gente che c'era, era pieno zeppo di gente, io dico c'erano migliaia, ma ci saranno stati 10.000 persone, piena, è abbastanza lungo come paese, già l'hai visto se ci sei stato, no? Come inizia, giù c'è Belvì, mi sa, è molto vicino, e praticamente è tutto dritto il corso, ed era una marea di gente, non avevi fatica anche a passare, pieno di bancarelle, prodotti tipici, castagne, poi c'era carne arrosto, insomma c'erano un sacco di stand, era anche una bella giornata e siamo andati dalla mattina e siamo ritornati la sera. E noi siamo andati a raccogliere le castagne quando siamo andati, adesso dice che non si possono più prendere perché i terreni ce l'hanno tutti comprati e ci sono i proprietari, non vogliono che le raccogli così, capito? Le raccolgono loro e se le vendono. Okay. Addirittura c'è un parco comunale dove c'è il museo della montagna ecosostenibile, eccetera, che è anche bellino da visitare, e noi siamo entrati in questo parco ed è invaso dai ricci di castagne, è tutto pieno di castagne, c'erano i bambini che avevano le buste piene, capito? Quindi ci sono spazi anche dove le castagne lì nascono praticamente spontanee, capito? Perché è pieno. fenoli, quindi è tutta quel bosco lì sopra Ariz, è tutto popolato da castagne, solo alberi di castagne ci sono lì, quindi ci sono spazi dove le puoi prendere. Io le ho prese un po' perché erano belle grosse, capito? Però in mezzo vedo che ce ne sono più piccole, capito? Ma la maggior parte di quelle che compri sono quelle un po' selezionate, sono belle grosse. Ne abbiamo anche mangiato lì di quelle fatte arrosto, capito? Sono buonissime, belle, sane, non hanno punture di insetto, nulla. A volte invece le compri nei negozi, a volte sono tutte baccate, capito? Sì, è vero, è vero. E a me arrosto mi piacciono, a me mi piacciono anche quando sono indurite le castagne e mangiarle secche, mangiarle in mezzo al latte, ramollirle un po' e poi piace poco, sono buone. Sono buone, io penso che le faccio al microonde, praticamente le spacco nella parte curva, no? Senza intagliare la polpa, solo la buccia per non scoppiare, le lascio a mollo 10 minuti, poi le metti nel piatto crisp del microonde, le lasci un quarto d'ora e te le fa, sai cosa vuol dire? Perfette, si sbucciano tutte belle, ti mangi la castagna intera in un attimo. Davvero, io non le ho mai fatte al microonde, le facevo sempre in quella pentola, in quella padella col coperchio bucato, le facevo lì a casa di mamma, poi non ne ho più, non ho, sinceramente c'era uno in Piazza Castello che le faceva, le galle arroste, te le compravi così già fatte, per senza stare a fare lavori, troppo lavoro, dai, diciamo così, ti faceva una specie di cono, te le metteva dentro e tu piano piano te le mangiavi. Sì, esatto, anche ad Arizzo era così, c'erano quelli che le facevano fuori, no, tipo bancarelle, le vendevano in bustate, con il sacchettino tipo quello delle patate, no? Sacchetti da 2,5 kg, avevano da 5 kg, oppure anche sfuse, se ne volevi comprare un chilo te la mettevano nella busta, io ne ho preso un paio di chili perché un po' le dovevo regalare e un po' me le sono tenute io. Ieri sono passati dei bambini chiedendo dolcetto scherzetto, gli ho dato un po' di castagne e qualche altro dolcetto che avevo e ho visto che ce le hanno apprezzate. Certo che le apprezzano. Vabbè, questa di Harvey è una festa, diciamo, che noi abbiamo ereditato, perché non è roba nostra, ma tutto fa brodo per fare i soldi, dai. Sì, mi ricordo che nei paesi, diciamo, c'era la tradizione, ma si chiede il giorno dei morti, cioè domani, si chiede all'anima dei morti, si chiede per l'anima dei morti, e i bambini andavano in giro nelle case, la gente ti regalava il melograno, quella mela cotogna, tutte uva, ti regalavano tutte queste cose, no? Fichi secchi, perché io mi ricordo da ragazzino tutte queste cose si facevano nei paesi e andavamo in giro a chiedere all'anima dei morti, bussavi i bambini, mi ricordo, bussavi nelle case, chiedevi, ah non fa bene, se ne va sol molto, e quindi la gente scende, te ne andavi a casa con le buste piene, che ti regalava anche qualche spicciolo, capito? E i bambini lo facevano, però era quella la tradizione che si andava a chiedere per i morti. Invece questa di Halloween è nella notte che va dal 30 all'1, mi sa. Sì, sì. E sono diventate feste, visto che cosa è successo, non mi ricordo dove, tutta quella fiumana di gente che è morta, che si sono incrociati, sono scesi una fiumana di gente dal metro, gli altri stavano sfilando, si sono incrociati e si sono buttati in terra, un casino, è successo, è morta gente. In Corea del Sud è successo quello, capito? Era una sorta di ritrovo di giovani, capito? Ma sono morte più di 100 persone. Sì, ma non era per la sera di Halloween quella. Esatto, un ritrovo era per festa di Halloween, di giovani in questa piazza, ovviamente poi non so cosa è successo, praticamente si sono schiacciati, talmente c'era tanta gente e non avevano previsto che ci andasse così tanta gente, poi evidentemente è successo un qualcosa che li ha fatti, non ho capito, gente che è morta soffocata, schiacciata. E basta che cada uno, quello che c'è dietro cade, cade l'altro e succede il casino. Sono morte molte ragazze, tutte sotto i 30 anni, quasi tutte donne sotto. Eh sì, ho visto sui telegiornali, è una cosa da paura, mamma mia, un sacco di giovani poi. Ecco perché io questi affollamenti li temo sempre, anche nei concerti, questi posti qua. Io ho visto cose nei concerti, cavolo, ho visto una volta, stavano cercando di sfondare il portale che c'è per entrare da dietro, la torre, questo poliziotto, gli stavano buttando la porta in terra, questo poliziotto da solo, una forza inaudita, ha preso la porta e l'ha tirata addosso, cazzo, questi qui, se riprendeva li schiacciava tutti. Guarda, sto guardando adesso sulle notizie ANSA, c'è scritto Seul, il ministro chiede scusa per la strage di Halloween. La polizia sudcoreana ebbe più segnalazioni di pericolo prima che la calca mortale di Seul causasse la strage tra giovani, con un bilancio di morti aggiornato a quota 156. Il capo della Polizia Nazionale ha definito insufficiente la gestione delle informazioni ricevute. È successo a Seul, in Sud Corea, capito? 156 giovani sono morti. Allucinante, guarda. Per una festa, ma dimmi tu. Purtroppo a volte da noi è successo in Europa con le partite, ti ricordi quando la Juventus era andata in finale di Champions, che poi l'aveva anche persa, che a Torino era morta una ragazza schiacciata e la calca, che avevano, non mi ricordo se avevano spruzzato di quelle spray al peperoncino, quindi la gente ha iniziato a correre, c'erano stati feriti, una ragazza era morta, roba da matti. Sì, mi ricordo. L'era successo anche in una discoteca, l'avevano fatto, una cosa del genere, con questo spray. Lui, guarda, ne trovano di tutti i colori questa gente per creare problemi, ma non è che non siete stati tranquilli. E noi siamo stati giovani, ma io non penso che ti abbiamo fatto cose del genere. Io ho sempre giocato a pallone, divertito, ce l'hai tu, amici me ne gioco venendo, col monopattino ho fatto dei cuscinetti, queste cose qua facevamo. E noi lo stesso, noi facevamo il carruccio, lo chiamavamo, fatto con i cuscinetti, e andavamo a cercarli nelle discariche, smontavamo le lavatrici per trovare questi cuscinetti, no? E poi facevamo questo carruccio che sono quelli che prendono volante in discesa, due lividi mi sono fatto. Gianni, Eia. Questa come va la modulazione? Buona? Chiara. Bella, va bene, anche da te Carlo. Perfetta, Cla. Ascolta, va bene così oppure se sollevo leggermente così? È troppo alta così? E così è più alta, se la passi leggermente era perfetta, proprio la modulazione è bella limpida. Ok, allora così, in questa posizione? Esatto, così è perfetta. Ok, anche da te Gianni? Sì, va bene, andava bene anche l'altra, però va bene così, dai, lascialo così che va bene, è chiara, dai. Amplificazione ce n'è? Sì. Ok, no, che sto usando il 60 con l'adattatore, però non riesco in cuffie a capire se va bene, se va male, sto qua, va bene, dai, mi sto ascoltando volentieri, ma sto impegnato con questa cosa. L'MC60, l'adattatore da 8 a 4. KK. Passabile, dai, può andare bene, no? Sì, perché con l'MC60 li ho vedati. No, stavo facendo così una prova, giusto per... ho visto, stavo controllando nel cassetto, stavo cercando una cosa, ho visto l'adattatore da 8 a 4, che mi pare mi avesse fatto Luca Manicomio, ma da tantissimo tempo, evidentemente lo usavo per qualche altra radio, l'ho attaccato, vedo che funziona, e allora vi ho chiesto un controllo, dai, tutto qua, va bene, continuate, io vi sto ascoltando, grazie per il controllo, vai Carlo. E aspetta, bella modulazione, mi sta entrando dentro casa praticamente, quanti watt ha quella radio? Una bella radio, chiara e bella calda, dai. Avete parlate in due, Carlo, cos'hai detto? Ho detto che sembra che stai entrando dentro casa con quella radio, ho detto è una ottima modulazione, non lo so quanti watt ha in uscita, ma ti sento molto forte qua. Guarda, i watt adesso poc'anzi stavo andando con 10 watt perché l'avevo appena accesa, adesso il massimo della potenza sono 25 watt in AM e quasi 50 ne va in banda laterale perché c'è le valvole nuove, nuove le avevo cambiate l'anno scorso. 25 watt sta segnando qua la T250, sul parlato anche quasi 30, beh, un ibrido come lo chiama Gianni, quindi c'è la battaglia finale a valvole, perciò la modulazione rimane molto calda, molto, molto bella, non è aburottosa, mi capito, tenendo conto del Mickey Gain ce l'ho neanche a metà, non ha compressore, non ha processore, è diretta, quindi già va bene. No, me l'hanno chiesta specificatamente perché sapevano che ce l'ho, ma non in vendita, devo fare un cambio, però prima di cambiare sto controllando tutto perché non voglio avere rotte le riballe, la radio è a posto, ho provato anche in banda laterale, non FM, e sto facendo man mano tutti i video sia in AM, in FM, in banda laterale, sui canali bassi, sui canali alti, perché faccio 260 canali, è il Mark 10, capito? Va bene Gianni, dai, grazie per il controllo e vi ascolto, intanto metto un po' a posto quella, ci sentiamo dopo semmai, vai Gianni. Ehi, siamo qua, sino all'ora di cena, perché poi quando mi chiamano a cenare, vanno a cenare, dai, riprendi Carlo. Niente, quindi ti stavo dicendo, tornando a non parlare delle stragi eccetera, stavamo parlando di castagne che era meglio, che sono stato lì ad Arizzo, diciamo era una bella giornata, ci siamo divertiti, ti ho detto se c'era il parco, parco museo, praticamente c'è un parco grande dove ci sono un sacco di alberi di castagne e lì liberamente le puoi prendere perché c'era la gente che se le metteva nei cestini, nelle buste, capito? Era pieno, era un tappeto enorme di castagne, però ci vogliono i guanti perché ti pungono pure quei ricci, capito? E quindi lì stare a selezionarle, se no ti tocca riempirti le buste di ricci e poi te le devi pulire a casa, però è un lavoraccio, capito? Devi stare attento perché pungono anche parecchio quei ricci lì. E niente, da vedere c'erano cose interessanti, c'era una prigione del periodo spagnolo del 500, bella da vedere, con diciamo mezzi di tortura, una sorta di tribunale spagnolo, capito, con tavolo, con il crocifisso e poi un sacco di attrezzi usati per la tortura, e lì venivano, allora ci hanno spiegato, si credeva molto alla stregoneria, no? Chi era accusato di eretismo contro la Chiesa, contro diciamo le cose sacre, erano tipo streghe e venivano condannate da questo tribunale spagnolo perché c'erano stati gli spagnoli e hanno lasciato diciamo lì ad Arizzo queste vecchie prigioni, ma bellissime da vedere, non sono grandissime ma tutto fatto in pietra, bello, con arredi diciamo risalenti a quel periodo lì, una cosa, poi lo stesso una vecchia casa che l'hanno fatta tipo casa museo, di questo diciamo di questa famiglia nobile di Arizzo che lo stesso risale al 500 eccetera, è stata però abitata sino al secolo scorso dagli eredi e poi questi sono morti e l'hanno lasciata come museo ed è ancora arredata come era al tempo, capito? Le case di un tempo fatte col tavolato, un sacco di cose carine insomma abbiamo visto, diciamo ne valsa la pena esserci andati, dai, a te Gianni. Hai visto il tipo di pietra che usano per le case, che belle che sono. Esatto, poi la cosa che ho notato è che uno dei pochi paesi della Sardegna dove tutte le case, quelle abitate perlomeno, sono tutte con facciate nuove, facciate in pietra, ma lavori fatti bene, capito? un bel paese proprio. Sì, sì, sono particolari le case come sono fatte. E io, sono, te l'ho detto, sono stato a Pasqua, a Pasquetta, e siamo andati a questo hotel Samuvara, e ci hanno fatto fare l'escursione, abbiamo mangiato cinghiale, un po' di tutto, tutti i tipi di carne praticamente selvatica. Il cinghiale l'abbiamo mangiato a gogo, in tutte le maniere. Esatto, sì, ci sono diversi hotel, c'è Samuvara che l'ho visto e lo conoscevo perché ci lavorava un ragazzo di tanti anni fa che conoscevo, ed era di lì, a Rangino, di quella zona lì, mi aveva detto che d'estate lavorava in quell'hotel lì. E poi ho visto ce ne sono altri due o tre di hotel, perché comunque è un paese molto all'interno, capito, è lontano, e quando ci vai, o la gente che ci va, insomma, preferisce stare lì almeno una notte per vedere qualcosa, perché andare e tornare in giornata è pesantuccio il viaggio. È bello anche andare al lago di Gusana, siamo stati anche lì al lago di Gusana un anno, e siamo stati un bel bene, siamo andati a mangiare al Caloro, quel ristorante che c'è lì. Tutte belle zone, poi lì mangi roba genuina, roba che producono lì, roba fresca. Certo, lì non mangi pesce, tutta carne, pasta e insomma dolci vari, già ne hanno tante di cose buone in quelle zone. E poi ti fanno la carne arrosto con la legna, capito? Non è che cucinano, fanno il fuoco fuori e cucinano la carne con la legna. Infatti anche le castagne ho visto, addirittura nella piazza che c'è vicino alla chiesa, c'era uno spazio dove hanno fatto un fuoco enorme, e poi c'era questa sorta di griglia enorme dove mettevano le castagne e poi le davano gratuitamente. Infatti lì c'era tutta la calca della gente che aspettava la cottura, capito? Ti facevano vedere come facevano un tempo, proprio è tutto fatto a fuoco, capito, con la legna locale. La cosa più genuina è quella. Io, guarda, c'ho un parente che del Nuorese, va apposta a comprare tutto fuori, prende il formaggio, lo compra cosa, come si chiama, in un paese, poi va a comprare il pane carasau in un altro paese, va proprio nelle case private dove lo fanno, dice non ti fanno uno sconto di niente, ma questo pane è così buono, io l'ho mangiato, guarda, bello croccante, bello abbustolito, ben fatto, proprio fino. E il formaggio compra quel re sardo, quello, cavolo, a Gafur lo compra, cazzo che buono. Lo so, e beh, lì sono zone molto, diciamo, molto alte, quindi ci sono pascoli buoni, ne hanno tanti lì. Comunque tutta quella zona lì, Arizzo, Belvie, tutto boschi è lì, è un po' a curve la strada, però ne vale la pena, una volta che arrivi lì vedi un sacco di cose, laghi, laghetti, insomma, tutto verde, bella zona. Sì, sono dei bei posti. E poi questi belli freschi. Sì, infatti ne vale la pena anche, come hai detto tu, magari organizzare anche una pasquetta da quelle parti, magari ci dormi una notte o stai due notti. E hotel, quello Samuvara è uno dei più vecchi che ci sia, però ce ne sono, c'è un bed and breakfast, la Baita di Arizzo si chiama, poi c'è hotel La Capannina e hotel Samuvara, in tutto sono tre. Guarda, per un centro del genere, capito? E poi c'è questo ristorante pizzeria da Dado, che ho visto che era ben organizzato, c'era un sacco di gente. Vabbè, io ero andato, quando sono andato siamo andati tutti in greffa, siamo andati tutti in coppia con i figli, con tutti, un bel di gente eravamo, eravamo 5 macchine, tutte piene, quindi siamo andati una bella greffetta, gli abbiamo lasciato un po' di soldi. Esatto, quello che ti dicevo si chiama carcere spagnolo Sabovida, capito? Sabovida, non lo so come lo chiama, però c'è anche nelle mappe, su Google Map, ed è interessante, è piccolino come prigione, capito? Una tipica prigione spagnola dove c'è la bottola, dove controllavano i carcerati dall'alto, capito? E su c'era una sorta di tribunale, c'era il tavolo, tutti i documenti appesi al muro che risalivano al 500, capito, in quel periodo lì, perché praticamente diciamo gli spagnoli erano avevano tutta la zona di Belvì, avevano tutto un casato lì, capito, e arrivavano sino ad Arizzo. Ho capito, sì, ah, sono dei bei posti veramente a vedere. Poi fai bene che stai andando in questi, quando fanno queste feste qua nei paesi, perché sono cose belle da vedere. Io l'avrei voluto fare, ma c'è anche un pulmino che ti porta, praticamente si ferma su alla Budi lì vicino al chilometro della Budi lì, e prende la gente e la porta nei paesi, poi la riaccompagna indietro, capito? Stanno lì anche loro, poi la riporta indietro per una fesseria. Sì, esatto, c'è l'autobus che è di Sennori, Laserbus si chiamano, e praticamente passa dove c'è il poligono, in quel piazzaletto, parte da lì e ti costa 25 euro, però parte presto la mattina alle 7, ti porta in questi posti e ritorni la sera. Più che altro che così, se devi bere eccetera, vai tranquillo, capito, perché poi non devi guidare, non hai il problema del parcheggio, della stanchezza. Se vai in giornata conviene anche andare con l'autobus, perché autunno in Barbagia lo collegano quasi tutte le domeniche, penso. Sono cose belle da vedere, almeno giri un po'. Ma uno magari che non c'ha il mezzo, appunto, come dici tu, se uno che beve cose, almeno se ne va via tranquillo, capito? Quando sono andato a Ossi, a Calici di Stelle, avevamo degli amici lì e tutto quanto, e ci hanno detto, guarda, puoi bere tranquillamente, tanto qua ci sono una pattuglia, la pattuglia che c'è qua, dei carabinieri, e quella praticamente c'era una pattuglia che se tu volevi andavi a fare l'alcol test prima di prendere la macchina, no? Per vedere se eri in grado di guidare dopo che uscivi da lì. Io l'avevo fatta e ho detto, vedi, lei ha bevuto, e ho detto, io sì, ho bevuto due bicchieri così e basta, invece non è vero. Ma abbiamo fatto un fondo con le uova sode e col coso, perché uno deve sapere anche bene, capito? Ho mangiato uova sode, poi gli spinaci al cartoccio, gli gnocchi fatti col sugo di pecora, e quindi il fondo ce l'avevo, capito? E non mi ha segnato nulla, capito? Qualche duro in più l'ho bevuto, non dico tanti, ma qualcuno in più già l'ho bevuto, di due. Però non mi hanno trovato nulla. E quel mio amico mi ha detto una cavolata, perché poi siamo usciti dal paese e c'erano quattro pattuglie dei carabinieri che sono messe in modo che tu dovessi andare a zigzag in mezzo alle macchine, no? E ti bloccavano tutte le macchine completamente. E quando siamo arrivati noi c'era anche quella pattuglia che mi aveva misurato a me. E ha detto, no, questo là lo lasci passare, che l'ho già fatto io, l'alcol test è tranquillo. Non me ne ha manco controllato. Esatto, adesso domenica prossima c'è Mamoiara, che anche quello è bellino da vedere, perché fanno l'uscita ai Mamontones, capito? Ovviamente da mangiare, prodotti tipici anche lì, solo che non credo, cioè ci potrei andare io il sabato, anche perché la domenica rientra a lavorare, ma di sera, per cui rientrando tardi, solo che il sabato è occupata mia moglie, la mattina a scuola e c'è l'orario pieno ed esce all'1:30, è troppo tardi andare a quell'ora, se no ci sarei andato anche sabato. Vabbè, se non si può, cosa fai? Ma comunque sono delle belle cose lì, ci sarà formaggio a gogo, salsiccia di quella buona, di quella magra, senza grasso. Infatti quando ci è andata un'amica gli ho fatto portare il formaggio da lì, ed era un bel buono, solo che è un bel piccante e ne devi mangiare poco, se no ti fa bruciare il stomaco. E anche il colesterolo ti fa sollevare. Comunque a Mamoiara, quando c'è il 16 e il 17 gennaio, c'è Sant'Antonio del Fuoco, no? Il Sant'Antonio Abate, però loro lo chiamano Sant'Antonio sul Fuoco, e praticamente è una festa che fanno loro, fanno questo grande falò, e poi lo sa. esaltano, escono anche lì, ma Muntones, praticamente si beve vino cotto, capito? Solo che a gennaio fa freddo andare da quelle parti, capite? Quindi ed è molto suggestiva la cosa, perché lo fanno di notte all'imbrunire, capito? Quindi fanno questo fuoco grande, ma lo fanno a gennaio, proprio i giorni di Sant'Antonio, che praticamente corrisponde con l'apertura del carnevale, poi, capito? Il fuoco lo fanno perché diciamo fa iniziare il periodo di carnevale. Cose belle, insomma, da vedere, già ce ne sono in Sardegna. Poi c'è invece Forni da vedere, ma quello è a metà dicembre, mi sa. Queste qui sono cose anche che fanno valorizzare i paesi, non ti credere che perché attirano turismo, attirano gente, insomma, questi paesi non devono stare sempre vuoti con i soliti abitanti, devono anche incrementare qualche cosa. Esatto, infatti penso lo facciano per quello. Non so se c'è qualcuno che vuole entrare, aspetta, diamo un attimo di spazio, avanti se c'è qualcuno. Mi era sembrato di sentire qualcosa sotto, invece non c'è niente, già vai pure. Comunque ci stavano andando delle amiche mie e mi hanno detto vienici qualche volta, cosa, e mi hanno promesso di andare, però poi una cosa o l'altra non riuscivo mai a andarci, e mi hanno detto si paga poco, mangiamo così la roba che c'è lì, tanto non c'è bisogno manco di andare in ristorante a mangiare, si mangia lì, compri qualche cosetta e via, e ci arrangiamo così, tanto ci sono assaggi che fai tutto quanto, e non so mai riuscito ad andare, ma mi sarebbe piaciuto, ti dico la verità, ma andarci però con un'altra gente, capito, in grefa, mi piace andare a questi posti. Esatto, basta organizzarla, già quando ti mettono a posto la gamba magari organizzi e si va, capito? Ma tanto tutti gli anni c'è, capito? L'autunno in Barbagia lo fanno praticamente inizia da settembre e finisce a dicembre, c'è il calendario che esce tutti gli anni, poi basta cercare su internet, metti autunno in Barbagia e te lo dà, ti dà il calendario che ti puoi salvare, eccetera, e vedi tu poi le cose più interessanti, però i centri migliori sono quelli lì, comunque Fonni, Desulo, oppure Arizzo, o Mamoiada, insomma, i posti, ma non solo, ci sono anche altri paesi belli da vedere. Sì, ma infatti, ci sarà il tempo, speriamo bene, dai, perché adesso sono sempre a letto, non mi posso muovere più di tanto, come metto piede in terra se ho subito dolori, per carità di Dio, meglio non pensarci. E te l'ho detto che ho telefonato 50 volte al policlinico, poi alla fine mi hanno telefonato loro per vedere cosa era successo, ci ho detto che non ce la facevo più dai dolori, se potevano fare qualche cosa per operarmi subito, perché mi ha detto guardi adesso vi prendo l'onere io, riparlo alla dottoressa, vediamo un po' cosa mi dice. Sì, già, fai bene, rompigli le scatole, perché tanto stare zitti e non serve a niente. Tu se non ti ricontattano, chiama di nuovo, non ti mettere problemi, perché se ti mettono a posto stai meglio, insomma, e non soffri così. Infatti, poi sono a furia di Uchi, capito? Lucchi fa male. Cerco sempre di non prenderlo sino all'ultimo momento, però non ce la fai, giusto, caro, non ce la fai a stare con questi dolori. È una cosa allucinante, da gridare ti viene, ma forti, forti, forti. Lo immagino, è una rottura. Vabbè già, porta pazienza. Ok Gianni, grazie delle quattro chiacchiere, perché devo adesso fare il giro in casa a vedere come vogliono la pizza, dopo devo uscire a prendere la pizza. Sono già le 7:30 quasi e mi devo anche cambiare, perché mi ero messo comodo in pigiama, pensavo di non dover uscire, invece tra prepararmi, insomma, e fare tutto mi serve una mezz'oretta. Va bene, dai Gianni, se ci siete più tardi, volentieri, anche dopo cena, se c'è qualcuno provo a rientrare, se no alle prossimine. Grazie delle quattro chiacchiere, saluto anche chi è in ascolto, se c'è Claudio ce la risentiamo, aspetto il tuo finale e poi chiudo. Ehi, a capo, a Carlo, dai. dai, ci sentiamo, grazie per queste o. Alle prossime buone cose, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ah, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Prova, 1, 2, 3,